Yeah. Vezzoso, orso il pomo, alla più bella, via diletta villanella, io ti porgo questi fior. Ma di lui più glorioso, di lui felice io sono, poiché in premio del mio dono. Poiché in premio del mio dono, ne riporto il tuo bel corre. E modesto, signori, quieta fede. Sento vero. E modesto. Con mio dispetto, vengo chiaro in quel visino. Io so breccia nel tuo petto. Non è cosa sorprendente, son galante e son sargente, non sa bella che resista alla vista d'un cimiero. Oh, yeah. amarte Dio guerriero fin la madre. La madre del forse mani, come io amo, che più tardi arrende l'armi. Dico il mio capito li amo, in qual dì vuoi tu sposarmi? Signorino, io non ho fretta, un tantì pensorgivo. Ma infelice, se gli accetta, disperato io morirò. Capitoliamo, capitoliamo, vendirò infelice del mio. Capitoliamo. Vincitore, arrenditi da me, non puoi scappare, no, no, non puoi scappare, no, no, non puoi scappare. Vedete questi uomini, vedete un po' da fuori, giocando nuovi cuori, di razzi di pugnali, non in un'esi facile, a di non puoi star, no. Occupero la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare. Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia. Obbligato, io son già della famiglia. Voi ripigliare potete, interrate in amori, il sol declino. Andiamo! Andiamo! Una parola, o oh, appresso è il mio. Partirmi non possio, mille volte il tentai. Ma se li muori, mi lascio in un altro. E che mi importa? Morrei di fame e senza pote alcuno. O di fame o d'amor, per me è tutt'uno. Questo sei nel porto con sorgente, ti crede certo di sperar mi affetto. Così ti parlo schietto e ti dico che in vano amor tu speri, che capricciosa io sono e non avrò ma che mi indosso nel buio appena è vista. Oh Adina, e perché mai? Deccio. giorno e notte in ogni oggetto, d'obbliarti in vano io tento, il tuo viso sul tuo impeto, col cambiarsi quel che fai, può cambiarsi ogni altro amor, ma non può giammai il primiero uscire dal cor. Sì, non sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, dal cor. Compratela per poco, io ve la do. E qui questo l'odontalgico mirabile liquore di copie delle cimici o sempre distruttore i cui certificati autentici vollati toccar vedere legge a ciaschedun farò per questo mio specifico simpatico prolifico un uomo setuagenario penale codinario nonno di 10 bamboli ancora diventò di 10 o 20 bamboli che nonno diventò per questo tocca e sana in breve settimana più di una fitta pedola di piangere cessò ma voi matrone rigide ringiovanire bramate le vostre rughe incomode con esso cancellate volete voi donzelle belli sciavir la pelle voi giovani galanti per sempre avere amanti comprate il mio specifico per pochi io ve lo do per pochi io ve lo do per pochi io ve lo do da bravi giovinotti da brave vedovette comprate il mio specifico per pochi io ve lo do e muove paralitici spedisce gli apopedici gli asmatici, gli ossidici gli esterici, gli diabetici guarisce i timpaniti le scafolle rachitidi e fino al mal di fegato che moda diventò mirabile per cimici mirabile per fegato guarisce i timpaniti spedisce gli apopedici comprate il mio specifico voi vedove donzelle voi giovani galanti per pochi io ve lo do avanti avanti pedole avanti avanti bamboli comprate il mio specifico per pochi io ve lo do sì sì per pochi io ve lo do sì sì per pochi io ve lo do sì sì per pochi io ve lo do l'ho portato per la posta da lontano mille miglia mi direte quanto costa quanto vale la bottiglia 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti! Per mostrare mio contento di sia amico accoglimento io vi voglio buona gente uno scudo regalar! Uno scudo veramente più bravo non si può dar! Non si può dar! Non si può dar! Non si può dar! Non si può dar! Ecco qua! Così stupendo, sì balsamico elisire, tutta Europa sa che io vendo, niente men di 9 lire. Ma siccome è pur palese che io son nato nel paese, per 3 lire a voi lo cedo, solo 3 lire. A voi richiedo Moretto, musica! Così chiaro è come il sole che a ciascuno te lo vuole uno scudo bello e netto in sanfoccia faccio entrare uno scudo bello e netto in saccoccia faccio entrare in saccoccia faccio entrare benissimo urgente ecco benissimo tradire grande cuore che vuoi sei grande cuore che vuoi sei noi ci abbiamo nel vostro Ripate al doppio, grappiamo qui per voi. Ripate al caldo affetto, grappiamo qui per voi. Non ci abbiamo il vostro amico, amico, grappiamo qui per voi. Grappiamo qui per voi, affetto. Sì, ricordo fare. Antipatia, il dolce affetto. Sì, ricordo fare. Sì, voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi. Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora in vaso. Avresti voi per caso la bevanda amorosa della regina Isotta? Ah, che cosa? Voglio dire lo stupendo e le dir che ne famore. Ah, sì, sì, capisco, intendo. Io ne son distinta. Effia vero. E se ne fa gran consumo in questa età. Oh, fortuna! E ne vendete? Ogni giorno, tutto il mondo. E qual prezzo ne volete? Poco assai. Poco? Cioè, secondo. Un secchino, null'altro qua. E la somma che ci va? Prendetelo, dottore! Prendetelo, dottore! Ecco il magico liquore! Obbligato, quasi obbligato, son felice, son contento, e l'esire di tua bontà benedetto chi ti fa. Nel paese assaggiato son felice, son trovato. Nel paese ti ha girato che di vedenza chi ti fa. Obbligato, obbligato, son felice, son felice. Non si trova, non si trova, non si trova, non si dà, ma non è uguale verità. Non si trova, non si trova, son felice, non si trova, non si trova, non si trova, non si dà, non si trova. Ehi, dottore, un momentino, un momentino, un momentino. In qual modo usar si puote? Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote. Poi si stura, ma si vada, che il vapor non se ne vada, che il vapor non se ne vada. Ben. Quindi al labbro l'avvicini. Ben. E la bevi a centellini. Ben. E l'effetto sorprendente non è tardi a conseguire. E l'effetto sorprendente non è tardi a conseguire. Non è tardi, non è tardi a conseguire. Sul momento, a dire il vero, necessario un giorno intero, tanto tempo sufficiente per cavarmela e fuggir. E il sapore? Eccellente! Eccellente! Eccellente! E Porto! un elisir. Obbligato, assi obbligato, son felice, son contento. Elisire di tua bontà, benedetto chi ti fa. Non so quale obbligato, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova. Il giovinotto! Ehi! Signore! Sovraccio! Silenzio! Fai silenzio! Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai! Oh! Sicuramente è un affar geloso assai! Impacciarsi di puttria tanti l'autorità! Dunque silenzio! E la fede mia neanche un'anima il saprà! Silenzio! Veneno la fede mia! Silenzio! Veneno la fede mia! Neanche un'anima il saprà! Da mortale fortunato, un tesoro è tuo donato, tutto il senso femminino te domani sospirerà. Ma mortale fortunato, ma mortale fortunato, tutto il senso femminino te domani sospirerà. Oh, dottore, vi do parola, e verrò per una sola, né per altra, e sia pur bella, e una sila avanzerà. Ma domani buona me, ma domani così bell'ontanza di qua. Ma mortale fortunato, un tesorio t'ho donato, tutto il sesso femminino ti doman sospirerà. Ma domani buon mattino bell'ontanza di qua, sì bell'ontanza di qua. Sì, sì, ma silenzio, ma silenzio! Non teme! Che lo faccio e lo sassai! Non fai! Ma domani buon mattino per lontanza la di qua! Certo, che è mica sella! Ma silenzio, ma silenzio! Anche me! E non farcelo da stare! E non fare! Domani buon mattino per lontanza la di qua! Certo, ma domani buon mattino per lontanza la di qua! Ma domani buon mattino per lontanza la di qua! Sarò di qua! Sarò di qua! Sarò di qua! Possente la tua virtù, se non bevuto ancora di tanta gioia, già mi colmi il petto. Ma perché mai l'effetto non ne possio vedere prima che in giorno intier non sia trascorso? Bevasi. O buono, o caro, un altro sorso. O qual di vena in vena dolce calor mi scorre, o forse anch'essa, forse la fiamma stessa incomincio a sentir. Certo la sente, me l'annunzia la gioia e l'appetito che in me si risvegliò tutto in un tratto. La la la la la la la la la. la... Diamine, ed essa? Ma no! Non ci appressiam de miei sospiri non si sa See? in opera, così per una prova. Dunque soffrire premiere, dimenticarla io spero. Dunque antico fuoco, estinguerò fra poco. Ancora un giorno solo, e il cuore guarirà. Per poco alle mie pene sposare un solito dammi le sue date domani avranno termine domani va bene credi un solito per la sentina esulti pur la barbara sposare un solito sposare un così. Che cosa può ridere? Dov'è sto Simonito? Ora la pia scopole! Se non la vieni qua! Va bene! Ora la pia scopole! Se non la vieni qua! Che cosa trova a ridere? Sono da combattimani, no? Che cosa trova a ridere? Come si è capito? Ora la pia scopole! Ma tu! Ora la pia scopole! Ora la pia scopole! Ma la pia scopole! Ma la pia scopole! Ma la pia scopole! La pia scopole! La pia scopole! Ma te! Ma sta già! Ne dorresti

si scappa un cuore sopra, un po' della testa da ridermi fa, un po' del suo passo da ridermi fa. Andiamo contenti, passa la giornata. Andiamo contenti, passa la giornata. Presenti alla festa, amore sarà. Se presenti alla festa, amore sarà. Canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto vi può dar? Perché la bella sposa mi voglia secondar. Sì, sì, l'avremo a caro, deve essere cosa rara, se cantendo il cavallo. La Nina Gondoliera e il senator Tridenti, Marcarola due voci, attenti, attenti. Io so ricco e tu sei bella, io ducati e vezziai tu, perché a me sarai tu bella, nina mia che vuoi di più? Non più rigor, fa felice un senator. Eccellenza, troppo onor, io non perdo un senator. No, no, no! Silenzio, zitti! Va ora, da barcaruola, prendi l'oro e lascia pur. Tutto lieve pesa e vola, prendi l'oro e lascia ignore. Ore, ore, un senatore, me d'amore supplicar, ma zaretto un giovinetto che mi piace mo sposar. Ehi, dal mio, non più rigor, fa felice un senator. Eccellenza, troppo onor, fare felice un senator. Bravo, bravo, dolca amara, la canzone cosa rara, sceglie il meglio non può scelta, il più esperto cantatore. Il dottore, dolca amara, in ogni arte professor, sceglie il meglio non può scelta, il più esperto professore. Il mio professore, notaro che viene a compier l'atto di mia felicità. Sia benvenuto. Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene. Giunto il notaro, in marina viene. Andi a mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletta? Non è niente! Sei non presente, competa, non riparlami a vendetta! Andiamo a segnar l'atto, il tempo ha fretta! Andiamo! Canta, canta, canta, canta! Cantiamo, facciamo brindisi, a sposa e cose amabili, per lo cielo un distabile, i giorni del piacere. Del piacere, amore, il vino, che non vi odor saranno, non pensando ogni affanno, tra donna e il bicchiere, non pensando ogni affanno, son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto. Ho veduto il notaro, sì, l'ho veduto, non va più speranza né molino per te, spezzato il cuore. Idol io, non più rigore, fa felice un senator. Voi qui, dottore? Sì, m'han voluto a pranzo questi amabili sposi e mi diverto con questi avanzi. Io son disperato, fuori di me son io, dottore. O dopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due pie. Cospetto, matto, recipe l'elisir, il colpo è fatto. E veramente amato sarò da lei. Da tutte, io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora. Caro dottor, una bottiglia ancora? Ben volentier. Mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro? Ah, non ne ho più. Mio caro, la cosa cambia aspetto. A me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo un quarto d'ora. Oh, me infelice. La donna è un animale stravagante davvero. Avina mama, di sposarmi è contenta e di ferire pur vuol fino a stasera. Ecco il rivale, mi spettere la testa di mia mano. Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi? Io mi dispero, perché? Perché non ha danaro, né so dove trovarne. Esci munito, se denari non hai, fatti soldato, e 20 scudi avrai. Suonanti. Quando? Adesso? Sul momento. Che farteggio! E voi con tanti gloria e onori al reggimento. Ah, non è, non ha ambizione che seduce questo cor. L'amore in guarnigione non ti può mancare, amor. No, no, no, no, non ti può mancare, amor. Ah, no. Ai perigli della guerra, io sovente esposto sono, che domani la patria terra sia congiunti ai me abbandono. Ma so pur che fuor di questa altra strada a me non resta per poter del cor da gina sarò un giorno pace tra le file le bandiere a girarsi amor si piace con le vispere bandiere con le vispere bandiere ah, chi un giorno tiene arina sempre lieto sempre gaio ma di belle un centinaio di costanza non s'annoia non si perde a sospirare non si perde a sospirare finché la vita fin la vita può lasciar vedi a me la vera gioia vedi a me la gioia accompagna il militare accompagna il militare vedi a me la vera gioia accompagna il militare vedi a me la vera gioia accompagna il militare la gioia accompagna vedi a me la bella gioia accompagna il militare vedi a me la bella gioia vedi a me la bella gioia accompagna il militare vedi a me la vita si credi a me la vita si credi a me la vita accompagna il militare si credi a me si credi a me la vita si credi a me la vita Venti scuri su due piedi e ben vada li prepara qua la carta che tu vedi pria di tutto sei segnale qua una croce dai una croce ne morino col camara va Nell'acquisto mi consolo, in complesso sopra e sotto, tu mi sembri un buon figliuolo, sarai presto caporale, seme prendi ad esemplare, sì. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contar. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contar. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questo, anche questa è da contar. Ah, non sa chi m'ha ridotto a tal passo, a tal partito. Tu non sai quel cor che sotto si semplice vestito. Sempre colmo, ma non potresti immaginar, ti impate sole e mare, se ti leggi a sospirar, a sospirar, a sospirar. Thank you. Giannetta! A voi mi inchino, a voi mi inchino! Ma cosa poteste, giovani? Ma cosa? Caro quel de Morino! Ma cosa? Ma dove non può capisco! E questa è l'opera! Dove non può Capisco, e non con il cuor. All'aria da signore, e non con il cuor. All'aria da signore. È bellissima. Dottor, dici se vero? C'ha per virtù simpatica, toccate tutto il cor. E di ciò credere, ti piace? Oh sì, davvero, che giovine che merda, da noi ne vado d'onore. Senza fallo vi ballerete con me, sì, con me, sì. Sono primo, sono io, sono io, l'ho impegnato anch'io, anch'io. Vedete, piano, scegliete adesso te per la prima, poi te misericordia con tutto il senso di cuore buone del Dio, non te, non te, non te, non te, non te. Oh! Sì, tutta la gioia al mio comando, io distillo il piacere, l'amor lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento è del mio decotto. Pazzie! Pazzie bollite! Incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta! Isotta! Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni cotta! Ascolto, e al mio marino voi disse l'elisir! Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele! Ehi, tu! Languiva e sospirava senza ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco incantato venne la libertà, si fe soldato. Spasimar languire al piede. Su che ti porta tanto? Prender voi gelosi e pazzi, non ne vedo per ragazzi. Non mi ha letto, non mi piace, né tornare altro in pace. Conquistar vorresti il ricco. Del ricchezze non mi becco. Ugotino, Matesino. Non lo che ne vorrei. Prendi solo la mia ricetta. Ad una sola perfetta. Che l'effetto ti farà? Ma mi vedo mannano. Prendi solo, prendi solo, prendi solo la mia ricetta. Che l'effetto ti farà? Si prendi solo. Sciagurate avresti cor di negare il suo valore. Io rispetto le desire, ma per me ve non maggior. Ne vorrei lasciato niente, tutto mio sol mio sarà. Ai dottore troppo scalda, più ditte costei messa, se più ditte costei messa, se più ditte costei messa, sì, sì. Una tenera piantina, un sorriso, una carezza, e se manca il mio sostegno, amore che più ci sprezza, le vedute tante volte, rese cose sfasi e monti, sentir. Confondere i miei co suoi sospir. Cielo, si può morir. Di più non chiedo, non chiedo. Quale accresce beltà l'amor nascente a far l'indifferente si seguiti così finché non viene ella a spiegarsi. Nemorino, thank you. si spiega. Oddio! Che mi lasciate? Io sì. Null'altro a dirmi avete? Null'altro. Ebben, tenete! Poiché non sono amato, voglio morire soldato. Poiché non sono amato, voglio morire soldato. Per me non va più pace, se mi inganno il dottor, se mi inganno il dottor. Voglio morire soldato, se mi inganno il dottor. Thank you. sono pur briccona, peggio per te. Pieno di donne il mondo, e mille, mille ne otterrà nel cuore. Venerata, questo elisir d'amore. Caro dottor, felice son per voi. Per voi! Per me, sappiate che Nemorino è divenuto un tratto il più ricco gastaldo del villaggio, perché è morto lo zio. Morto lo zio! Io lo sapevo! E io sapevo anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento non solo rivelare al mal d'amore, ma ricchirgli spiantati. Oh, il gallicore! E corregge ogni difetto, ogni vizio di natura, e fornisce di belletto la più brutta creatura. Camminare fa le rozze, schiaccia gotte a piana bozze, ogni incomodo tumore copre sì che più non è. Ma dottore, a me dottore, ma se vado in padre. Egli è un'offa seducente dei guardiani scrupolosi, è un sonno fero eccellente delle vecchie e gelosi, dà coraggio alle figliuole che han paura dormir sole. Se Ierino è per l'amore più potente del caffè, ma dottore a me dottore, ma se tanto è per me. Prediletti dalle stelle, io vi lascio un gran tesoro, tutto è lui salute e pelle, allegria, fortuna e oro. Rimperdite, rifiorite, impinguate, arricchite della mia che vulcanaria, così un peggio di vulcanaria. Avío a Dulcamara, que ha abandonado el escenario del Gran Teatro del Liceo a bordo de una moto. Así acababa el Elisir d'Amore, que les estamos retransmitiendo en directo desde Barcelona, en la sintonía de Radio Clásica. Son las 8 de la tarde, 47 minutos. Aplausos para esta música tan fantástica de Gaetano Donizetti. El público ya lo han ido escuchando, enfervorecido con algunas de las actuaciones. Ahora se abre de nuevo el telón que ya había caído para que podamos saludar en primer lugar a los figurantes, numerosísimos figurantes en esta producción, esos soldados que ustedes han podido escuchar desfilando por el escenario y también por la platea del Gran Teatro del Liceo. Pues son un elenco bien numeroso al cual hay que añadir al coro del Gran Teatro del Liceo, que ahora también está subido al escenario y se acerca a la boca del escenario a recibir, pues eso, el aplauso del público. Está ahí en el centro de la escena, vemos esa concha donde se oculta el apuntador, Jaume Tribó. Lo sacamos a colación, básicamente, porque cumple 50 años desempeñando esa función. Ahora salen, bien, iba a decir, los cinco cantantes protagonistas, pero vemos que falta uno. Están ahí Adina, Pretty Yende, Nemorino, Michael Spires, Belcore, Jean Antem y Gianetta, Núria Vilà. Nos falta Fabio Capitanucci como Dulcamara, que parece que tenemos sorpresa final. Con la moto había llegado muy lejos. Y vuelve, pero vuelve por el centro de la platea, entre medio de todo el público. Y parece que vamos a tener propina. Alle rozze schiaccia goppia piana rozze ogni incomodo tumore o pesci che più non è egli è una fase Sveglierino è per l'amore più potente dei caffè. Maestro, un elisir per lei. Lascio un gran tesoro, tutto in lui salute e bene, allegria, fortuna e oro, rinverdite, rifiorite, impinguate, arricchite. Pues sí, menuda propina para el público del Liceo, para los oyentes de Radio Clásica e incluso para el